Salve cari amici di Radio Big World, sono qui, sono Stefania e affronterò nel mio spazio Il Popolo di Barabba stamani mattina un argomento di cui ho già anche accennato in altre puntate precedenti. L'argomento è quello della politica. La politica, che è un tema davvero molto molto molto importante, non finirò mai di dire molto importante, perché sono quei temi, sono quelle attività che regolano la vita di noi cittadini, e in base a quello che poi noi cittadini votiamo, per fortuna siamo in una democrazia. Diceva qualcuno, non mi ricordo chi, la peggior democrazia è sempre meglio di una dittatura. Quindi viviamo in una democrazia e viva Dio, e quindi siamo noi poi che andremo a votare. Quindi l'auspicio che tutti i cittadini, o comunque una buona parte, siano consapevoli, siano coscienziosi del voto che poi andranno a fare, andranno ad esprimere la loro opinione nelle urne. Stiamo assistendo oggi a un percorso davvero anomalo, che non si era mai verificato nel corso della nostra Repubblica. Un momento davvero molto complicato, con l'aggiunta di un linguaggio comprensibile, è vero, a noi cittadini, perché ci arrivano dei messaggi che più espliciti e più terra terra di quelli che ci arrivano non potrebbero arrivarci, quindi sono davvero molto diretti e molto comprensibili, ma è incomprensibile poi il contenuto e soprattutto la finalità di quello che viene detto, perché mi sto rendendo conto, seguendo un po' i dibattiti politici, che oggi viene detta una cosa, viene espressa un'opinione, e dopo, ma non dico il giorno dopo, dico la sera stessa, ne viene detta un'altra che annulla, perché è completamente diversa da quella detta precedentemente. Questo è un caos davvero improponibile. Quindi, anche se un linguaggio elementare, ma poi ci perdiamo di fronte a questo caos di opinioni che non hanno un filologico, non hanno un peso per cui uno può attivare la propria attenzione e iniziare ad elaborare un pensiero per cui dice: posso andare ad esprimere il mio voto alle urne in tutta tranquillità, perché penso di scegliere quello che secondo me è quello più idoneo al mio stato sociale. Perché poi di questo si tratta: le persone che non hanno lavoro giustamente votano per chi il lavoro glielo promette, le persone che hanno miliardi votano per chi promette loro tasse minori, e di questo poi si parla. Vediamo poi i risultati, ma in un caos così davvero improponibile e umiliante per noi cittadini è difficile comprendere. Stamani mattina, prima di venire qui, ho sentito che è probabile che si ritorni alla soluzione, quella prima del governo tecnico. Sembra che il Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio e la Lega con Matteo Salvini si riuniscono in quella specie di contratto che hanno fatto con il Presidente del Consiglio, il signor Giuseppe Conte, e si possa auspicare poi ad un nome diverso da quello di Savona, che sembra sia questo il nome incriminato per cui il nostro Presidente Mattarella ha detto no a questo possibile governo, di cambiare questo nominativo. Ora, insomma, con tutta la buona volontà di noi cittadini nel metterci lì di testa buona a tentare di capire le mosse dell'uno o dell'altro, perdonatemi, io mi sto perdendo, anzi mi sono già persa da un bel po'. però davvero è molto complesso lo stabilire se mai dovessimo tornare alle urne che cosa fare. Dall'altra parte c'è chi è all'opposizione, che abbiamo il ritorno di un Berlusconi, non voglio esprimere giudizi, lascio a voi il giudizio, dall'altra parte, l'altra opposizione, abbiamo un PD e anche qui dov'è? Credo che la prossima volta che andremo alle urne l'estrema destra possa prendere il sopravvento. Poi non so se l'estrema destra o l'estrema sinistra, perché anche qui bisognerebbe un attimino mettersi lì e studiare attentamente quello che hanno detto e quello che dicano e quello che propongono, perché oggettivamente ora dicono una cosa, tra 5 minuti ne dicono un'altra, dipende dalla convenienza. Siamo davvero messi male. Probabilmente questo è l'epilogo di un percorso che non è andato a buon fine. Non è andato a buon fine. Io, dal mio punto di vista, la grande responsabilità di questo la affido con tutta me stessa a un avanzamento della mediocrità e della semplificazione delle cose, dovuto anche ad una comunicazione impossibile, a una comunicazione improponibile, a una comunicazione che tiene presente solo la semplicità e l'ignoranza delle persone, e in base a quello si muove. Sicuramente dietro ci sono dei manovratori molto abili che sanno il fatto loro. Per dirvi come sono arrivata a questa conclusione, 2 settimane fa andai al cinema con il mio nipotino di 8 anni e lui scelse di andare a vedere Avengers. Pensavo di annoiarmi da morire, come spesso è successo quando sono andata a vedere i film con il mio nipotino, e invece è stato davvero molto interessante. E in questo filmato fantascientifico, ovviamente, c'è il cattivo, che poi non so quanto cattivo possa essere, che è il vincitore, stranamente a tutte le favole, a tutte le storie che vengono raccontate ai bambini, e che, ecco, la sua cattiveria, non so quanto possa essere cattiveria. Riassumendo, sicuramente lo avrete visto, ma il cattivo, non mi ricordo il nome perché anche lì i nomi sono quasi improponibili, mi sembra Thorman, ma non sono sicura. Il cattivo che cosa fa? È cattivo perché uccide la popolazione, molta popolazione di un pianeta, perché ha stabilito che se la popolazione rimane numerosa, dopo un po' di anni moriranno tutti perché non ci sarà più cibo per sfamare quella popolazione. E allora lui pensa di ucciderne una buona parte. E quindi niente, ci sono molti eroi che vanno incontro allo scontro di questo personaggio, però lui alla fine, insomma, prende il sopravvento e vince. E così credo che ci sarà un seguito, non lo so. Però ecco, che sia questo il, la butto là in maniera veramente molto provocatoria, il disegno dei nostri politici. E con questo vi lascio. E ci risentiamo la prossima puntata, noi del Popolo di Barabba.